Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento ormai quotidiano con l'economia in pagina. Oggi iniziamo dal libro Indice delle liberalizzazioni 2009, un indice che è introdotto da Carlo Stagnaro che abbiamo con noi. Buongiorno Carlo Stagnaro. Buongiorno. Carlo Stagnaro è dell'Istituto Bruno Leoni, è un istituto intitolato al grande filosofo del diritto e che è un think tank sul liberalismo, è uno degli avamposti del liberalismo in Italia e quindi non poteva che produrre un indice delle liberalizzazioni. Stagnaro, che non è il primo, è una serie ormai. Siamo alla terza edizione, la prima risale al 2007, anno in cui abbiamo cominciato a indagare una serie di settori dell'economia italiana per verificare quanto fossero aperti rispetto agli stessi settori nei paesi più liberalizzati d'Europa. Quindi è un libro che è in pratica un'analisi in cui vari settori economici, dall'energia alle professioni, vengono appunto esaminati per verificare quanti passi in avanti ha fatto l'Italia. E devo dire che nell'introduzione c'è una tabella dove si passa dal 49% del 2007 al 48% del 2008 al 51% del 2009. Come dire, siamo fermi? Siamo fermissimi anche perché, come è comprensibile, tutte le nostre valutazioni hanno un certo grado di arbitrarietà, quindi variazioni così piccole non meritano neppure di essere evidenziate. All'interno di questo star fermi però si nasconde un po' di movimento, nel senso che questi 49, 48 e 51 sono a loro volta il risultato della media di 15 settori che abbiamo esaminato, alcuni dei quali hanno effettivamente avuto dei movimenti più o meno significativi. Quello più significativo, quello più importante, perlomeno valore assoluto, riguarda il mercato del lavoro, il cui grado di liberalizzazione rispetto alla Gran Bretagna, che è il nostro paese di riferimento in questo caso, è volato dal 50% del 2007 al 35% l'anno scorso, al 55% quest'anno, indicando i numerosi e contrastanti interventi radicali che sono stati fatti. Ecco, per esempio si può sottolineare come al primo posto, mi pare se non sbaglio, c'è il mercato elettrico con un indice positivo di 77, mentre agli ultimi posti ci sono le infrastrutture autostradali con 29 e i servizi postali con 39. E questo vuol dire che in questi settori non c'è concorrenza? Vuol dire che non c'è concorrenza e vuol dire soprattutto che non c'è concorrenza perché restano degli ostacoli di carattere normativo, regolatorio, fiscale o simili. È interessante notare da questo punto di vista come il risultato positivo del mercato elettrico, che ha anche un trend positivo, noi abbiamo riscontrato un miglioramento di anno in anno, è in qualche maniera il frutto dello slancio in avanti che il nostro paese fece ormai 10 anni fa, quando non si limitò ad adeguarsi alla direttiva europea, ma alle direttive europee che prescrivevano l'apertura del settore, ma addirittura andò oltre e diede un'impostazione, un'impalcatura regolatoria coerente e stabile. Viceversa, all'estremo opposto, non solo per il valore assoluto, cioè il 29%, stanno le infrastrutture autostradali, che noi consideriamo molto negativamente, non tanto o non soltanto per il tipo di norme e di regole, quanto per la frequenza con cui vengono cambiate e per l'imprevedibilità con cui vengono cambiate. Ovviamente cambiamenti normativi rapidi e vasti sono un deterrente all'ingresso sul mercato, perché un investitore non sa come farà l'ambiente in cui deve lavorare l'anno prossimo. Ecco, infatti nell'introduzione tu scrivi l'Italia è un paese abbastanza liberalizzato ma pericolosamente vicino al confine con le nazioni poco liberalizzate. Di fatto, vista la soglia di significatività del 5%, il nostro paese si trova nel limbo, con un piede nel mercato e uno dell'interventismo statale. Diciamo che rischia di avere tutti i difetti dell'uno e tutti i difetti dell'altro. Beh sì, soprattutto nei settori che individualmente risultano aperti a metà, nel senso che un settore aperto a metà vuol dire che non vigono pienamente le regole della concorrenza e quindi non tutti i benefici, i prezzi più bassi, maggiore pluralità di offerta e così via, probabilmente esistono, ma al tempo stesso restano tutte le ruggini e gli attriti di un sistema monopolistico e statizzato, senza però averne l'unica caratteristica, tra virgolette, positiva, almeno per chi ci crede, cioè il fatto che sia possibile effettuare una programmazione su quel settore. In questo caso non siamo né nel mondo programmato né nel mondo libero, in qualche maniera. Siamo in un mondo a metà che è anche un po' schizofrenico, nel quale è difficile orientarsi sia per il produttore sia per il consumatore. Ecco, ma in questa fase dell'economia globale si è parlato tanto, purtroppo siamo anche di fronte alla crisi economica reale, e forse lo stesso concetto di liberalizzazione non merita di essere un po' rivisto? La domanda è ovviamente un po' provocatoria, Carlo Straniaro. No, io non credo che meriti di essere rivisto, nel senso che le liberalizzazioni, dove sono state fatte e nei paesi che le hanno fatte, hanno prodotto effetti positivi almeno dal punto di vista del consumatore, non evidentemente dal punto di vista di chi precedentemente operava da una posizione monopolistica. Piuttosto a me pare interessante in questa fase il dibattito se un momento di crisi sia adatto oppure no a fare delle riforme. Io credo di sì, in primo luogo perché le riforme che servivano ieri servono anche oggi, da questo punto di vista nulla è cambiato, e in secondo luogo perché, visto che oggi ci stiamo in qualche maniera affannando a trovare degli strumenti per rilanciare l'economia o per aiutare l'economia a uscire dal tunnel, le liberalizzazioni sono per definizione uno strumento del genere, perché aprono un mercato, aprono delle opportunità e creano quindi la condizione perché qualcuno possa scommettere in proprio. Ecco, liberalizzare non vuol dire togliere delle regole, ma fare delle regole che aiutino il mercato a funzionare. Quindi anche una politica di liberalizzazioni ha bisogno di una regolazione. Non è questo forse contraddittorio in sé? No, non è contraddittorio. Io credo che sia un elemento molto importante. Poi si può discutere sulle singole regole o su chi le produce, però indubbiamente un mercato non è per definizione non è uno spazio dove ciascuno fa quello che vuole, un mercato è una piazza in senso figurato e non figurato, cioè un mercato è un posto dove si scambia, e per scambiare bisogna che ci siano delle regole condivise. Da questo punto di vista credo che sia interessante il fatto che nel nostro indice risultano generalmente più e meglio liberalizzati i settori che sono caratterizzati dalla presenza di un'autorità di regolazione indipendente rispetto a quelli dove un organismo del genere non c'è. Ecco, in Italia ci sono molte autorità, forse sono un po' troppo recenti, qualcuna ha peccato forse di ingenuità, devono forse consolidare la loro presenza all'interno dell'economia? Questo sicuramente sì. Devono consolidare, devono sviluppare una cultura che fino a pochi anni fa non avevamo, e quindi questa in qualche maniera è un attenuante, ma soprattutto devono le autorità, e dobbiamo noi, difendere la loro indipendenza sia dagli regolati, sia dai soggetti regolati, cioè dalle imprese che competono, sia soprattutto dai governi, perché le regole sono credibili se sono appunto frutto di una riflessione tecnica e se possono garantire un certo grado di stabilità. Cessano di essere credibili nel momento in cui diventano strumento di negoziazione politica al pari di qualunque altro intervento politico. Oppure quando vengono, come si dice adesso, catturate da qualcuno per fare gli interessi di qualcun altro. Grazie a Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, che ha curato l'indice delle liberalizzazioni, edito dallo stesso Istituto Bruno Leoni, costa 26 euro, è sul mercato libero liberalizzato dell'editoria, ha 348 pagine e ha, appunto, essendo un rapporto, una serie di analisi sui settori visti alla luce del grado di liberalizzazione. Economia in pagina. Bentornati al nostro appuntamento con i libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte dell'indice delle liberalizzazioni 2009, edito dall'Istituto Bruno Leoni, e parliamo adesso di fondi sovrani con Alberto Quadriocurzio. Buongiorno professor Quadriocurzio. Buongiorno a lei. Alberto Quadriocurzio è preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano e con Valeria Miceli ha scritto questo libro nella collana Farsi un'idea del mulino. È una collana eminentemente didattica, divulgativa, che vuole portare alla ribalta alcuni degli elementi di fondo del dibattito politico, economico, sociale sotto molti, molti aspetti. E i fondi sovrani, innanzitutto, è una realtà di cui si è parlato, si parla negli ultimi anni come una nuova realtà emersa all'interno del sistema finanziario. E allora cominciamo innanzitutto col professor Quadriocurzio a vedere che cosa sono i fondi sovrani. La definizione di fondi sovrani è stata configurata per connotare due caratteristiche. Innanzitutto si fanno capo a degli stati, ovviamente titolari di una sovranità, e in secondo luogo sono grandi riserve di natura finanziaria, il più delle volte rivenienti da esportazioni di petrolio, di materie prime, ma anche in altri casi come quello della Cina, rivenienti da dei surplus commerciali assai consistenti. Il concetto di fondo sovrano si è poi diffuso e in taluni casi ha avuto anche delle estensioni particolari, perché si è ritenuto che tutto ciò che in qualche modo fosse generato da surplus e conferito a un'entità dipendente direttamente dal governo fosse denominabile come fondo sovrano. Quindi è una definizione che viene interpretata in modo evolutivo, ma che naturalmente dal punto di vista geografico poi è molto ben connotata, perché i più potenti dei fondi sovrani sono fanno capo a determinati paesi esportatori. Quindi ecco, sono fondi il cui controllo operativo dipende da delle autorità pubbliche, da dei governi, e quindi a degli stati, non sono affidati all'economia privata, non fanno parte di quella che è l'economia finanziaria tradizionale. Questo però, invece di costituire un elemento di trasparenza, viene considerato un elemento di opacità. Come mai? Questa è una domanda cruciale, perché in molti casi, anche nella successione storica di questi fondi, il fatto che gli stessi fossero sotto il controllo di uno Stato sovrano ha reso in molti casi giustamente preoccupati i paesi riceventi degli investimenti dei fondi sovrani, che gli investimenti stessi potessero avere delle finalità diverse da quelle economiche, in altri termini delle finalità politiche o addirittura delle finalità di natura strategica, nella misura in cui i fondi sovrani hanno cercato di acquistare imprese che lato senso rientravano nelle imprese sensibili. Naturalmente il concetto di impresa sensibile è un concetto piuttosto ampio, per cui si può partire da quello dell'energia fino addirittura ad arrivare a quelli che sono ovviamente sensibili come le costruzioni aeronautiche. Il secondo motivo che ha reso particolarmente vigili e in molti casi giustamente vigili i paesi riceventi degli investimenti dei fondi sovrani è la scarsa trasparenza di molti. In altri termini, si conosce abbastanza poco sulla origine dei fondi, in modo specifico, non in modo generale, su come questi fondi sovrani sono governati, sugli importi complessivi delle loro risorse finanziarie e via discorrendo. E questo ha generato sia delle legislazioni nazionali che delle forme di accordi internazionali per aumentare la trasparenza dei fondi sovrani medesimi. Così come alcuni paesi, la stessa Unione Europea, gli stessi Stati Uniti hanno posto appunto dei vincoli all'ingresso e all'operatività dei fondi sovrani all'interno di questi stessi paesi, limitando appunto i settori di intervento, appunto quelli che si diceva dei settori sensibili come quello energetico, come quello punto finanziario in senso stretto, ma ci sono stati paesi come la Francia che hanno bloccato i fondi sovrani che volevano intervenire nel settore del gioco d'azzardo. Quindi ecco, in questo senso c'è quasi un atteggiamento di difesa da parte dei paesi potenzialmente riceventi questi fondi. Ecco, l'atteggiamento di difesa è stato molto diffuso fino, direi, intorno alla fine dell'anno 2007, e in molti casi gli investimenti dei fondi sovrani, o riferendosi a delle norme o attraverso dei comportamenti politici di fatto, sono stati bloccati. Tuttavia dal 2008 e direi anche dalla seconda parte del 2007 in avanti l'atteggiamento è cambiato, perché in molti casi, di fronte alle crisi gravissime di talune banche, di talune grandi compagnie finanziarie, ebbene, di fronte a quelle crisi il fondo sovrano o i fondi sovrani sono stati considerati benvenuti, in molti casi quasi considerati dei salvatori, anche se poi queste operazioni, che di salvataggio alla fine non sono state, hanno largamente penalizzato gli investitori, che ovviamente con il crollo delle quotazioni di molte società, laddove essi avevano investito, hanno perduto cifre gigantesche. Ecco, ma a questo punto, professore, non è possibile che, approfittando allora dei valori attuali, che sono molto più bassi di quelli di 18-24 mesi fa, questi fondi sovrani non possono approfittare per fare, come dire, shopping nel sistema finanziario occidentale e quindi conquistare posizioni anche di forza all'interno della struttura economica del mondo industrializzato? Ecco, questo è un caso che a mio avviso non ha fino ad ora comportato adeguata attenzione, perché l'ansia di determinare investimenti dei fondi sovrani per tamponare crisi finanziarie e crisi bancarie ha forse fatto dimenticare che la prospettiva deve essere quella di medio-lungo termine, e quindi bisogna tener conto che in queste circostanze, essendo quei fondi, o almeno molti di quei fondi, assai solidi e quindi capaci di tenersi delle perdite anche per anni, ebbene il momento poteva essere per loro proprio quello di entrare in entità massiccia. Devo anche dire però che si va delineando, se non una normativa, degli accordi internazionali, tra cui il principale, il cosiddetto accordo di Santiago, che è un accordo stipulato tra i paesi ospitanti degli investimenti e i paesi di radicamento dei fondi sovrani, sotto la supervisione del Fondo Monetario Internazionale, con il quale si sono stabiliti determinate regole, da un lato per evitare il protezionismo, perché anche questo non è certamente un bene, e dall'altro per far sì che i fondi sovrani che vanno ad investire abbiano la trasparenza sufficiente per essere accettati e che comunque abbiano delle finalità chiaramente economiche o economico-finanziarie e non delle finalità di tipo politico, di tipo strategico, che certamente non sarebbero ammissibili. Quindi viviamo in questo momento in una zona, a mio avviso, grigia, caratterizzata da un lato dei cosiddetti principi di Santiago, che il Fondo Monetario ha promosso attraverso accordi diretti tra i fondi, i paesi dei fondi sovrani e i paesi riceventi, e dall'altra con la crisi di borsa, che adesso però si sta riprendendo, e quindi con perdite che peraltro, ripeto, i fondi sovrani hanno accettato con molta tranquillità, data la loro forza e la loro consistenza, e che probabilmente nel medio termine daranno a loro stessi delle notevoli soddisfazioni. Ecco, c'è un altro elemento che le rilancia in questo libro e che ha già, di cui ha già parlato negli articoli sul Sole 24 Ore. Eurolandia dovrebbe darsi un suo fondo sovrano per agire sia in senso anticrisi sia pro crescita. La nostra proposta implica una difficoltà concettuale e attuativa molto inferiore a quella dell'euro, che dal fondo sovrano europeo sarebbe rafforzato. Perché un fondo europeo, professore? Sì, questa è una idea che è stata elaborata riprendendo un po' una proposta antica di Jacques Delors, il quale nel 1992-93 aveva proposto l'emissione di titoli del debito pubblico europeo. La proposta fatta da noi, che peraltro, come lei stesso ha ricordato, era già uscita sul Sole 24 Ore tramite un articolo firmato dallo sottoscritto, ebbene era quella di conferire una massa di intervento all'Unione Europea assai consistente, con due profili. Uno, l'utilizzo come garanzia, quindi non vendendo, delle riserve auree del sistema europeo di banche centrali. Si tratta di circa 350 milioni di once, che rappresenterebbero una formidabile garanzia per emettere titoli di debito pubblico europei, il cui ricavo finanziario dovrebbe servire all'Europa per intervenire in tutte le situazioni, o per costruzioni di infrastrutture, oppure anche in situazioni di consolidamenti industriali e consolidamenti bancari che non hanno ormai più una portata nazionale ma una portata europea. Se mi hai consentito un esempio un po' improvvisato ma non meno credo significativo, abbiamo visto la vicenda di Opel. Nella vicenda di Opel uno Stato giustamente si interessava della propria azienda, o meglio dell'azienda localizzata sul suo territorio. C'era un'azienda di un altro paese, Fiat da una parte, Opel dall'altra, Ebbene, se ci fosse stato un fondo sovrano europeo, avrebbe potuto fare una grande operazione di consolidamento del mercato automobilistico europeo intervenendo direttamente, ma non sotto l'egida di un singolo Stato nazionale, perché quello poi può sempre finire in meccanismi protezionistici che sono alquanto pericolosi. Ecco, i fondi sovrani potrebbero appunto anche intervenire in questa prospettiva. Il libro si conclude proprio prefigurando una possibilità in cui i fondi sovrani evolvono in direzione di investimenti volti all'interno delle loro aree geoeconomiche per favorire lo sviluppo di queste stesse aree. Questa, scrive in conclusione il professor Quadrio Curzio in questo libro, sarebbe una prospettiva di ricostruzione dell'economia internazionale centrata su alcuni grandi poli geoeconomici e geopolitici. Ma forse si tratta di fantaeconomia. Ma forse conoscere i fondi sovrani, professor Quadrio Curzio, può essere interessante anche per capire dove si può andare, e capire dove si può andare può essere già fare un passo in avanti per andare in questa stessa direzione. Sicuramente la proposta finale, che per taluni versi può essere fanteconomia, e tuttavia noi crediamo sia una proposta con una sua razionalità, perché molti di questi fondi sovrani, soprattutto quelli dei paesi esportatori di petrolio, hanno configurato il loro attivismo e la loro attività andando a investire in paesi sviluppati, quando noi sappiamo benissimo che in quegli stessi paesi titolari dei fondi sovrani sarebbero necessari degli investimenti, così come lo sarebbero in paesi confinanti che hanno dei gradi di sviluppo molto bassi ma delle potenzialità di crescita molto importanti. In altri termini, taluni fondi sovrani sono stati amministrati piuttosto come i fondi del sovrano, è una, come dire, un cambiamento di intonazione, di terminologia, piuttosto che fondi sovrani, quindi anche allo sviluppo interno di aree contigue dei paesi titolari. I fondi del sovrano sono tutt'altra fattispecie, sono quelli che il sovrano, essendo dotato di un potere che va al di là di quello che nelle democrazie fa parte delle regole di governo, ebbene questi sovrani amministrano questi patrimoni come se fossero dei patrimoni personali. Ecco, se fossero messi a disposizione di uno sviluppo, certamente equo e più giusto a livello internazionale, sarebbe certamente un passo avanti per un sistema finanziario che ha bisogno di essere messo un po' sulla giusta strada. Io ringrazio il professor Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica, che ci ha illustrato il libro I fondi sovrani, scritto con Valeria Miceli, nella collana del Mulino Farsi un'idea. È un libro che costa 8,80 euro, quindi non ci vuole un fondo sovrano per acquistarlo. Sono 140 pagine e si leggono con molta attenzione. Grazie professor Quadrio Curzio, grazie a quanti ci hanno seguito.